cuore di tanta gente. Tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello, oh. Anche tu così presente, sempre, così solo nella sempre, mente, sempre, sempre. Che tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello.